Focus Economia. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezzi e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17:08, è una puntata, come avete già sentito dal nostro giornale radio, nella quale dedicheremo ampio spazio alla visita del premier cinese Wang Jiabao in Italia, una visita che ha avuto molti aspetti economici, come avete sentito. C'è l'idea, questa è stata enunciata dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, di arrivare a 100 miliardi di interscambio tra appunto Cina ed Italia. Sentiremo qualche voce di questa giornata, compresa appunto quella di Berlusconi, quella della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, e poi commenteremo ancora questa visita di Wang Jiabao. Sullo sfondo naturalmente di questa visita ci sono anche ancora le tensioni per quel che riguarda la questione delle valute, con le accuse che arrivano alla Cina di tenere lo yuan troppo basso. Tutto questo in una giornata nella quale l'euro ha toccato un nuovo massimo dal 3 febbraio scorso, per essere esatti, a 1,40,29, adesso ha decisamente ritracciato e quota 1,39,18. Complessivamente i mercati stanno andando bene, hanno avuto una fiammata nel primo pomeriggio, poi come dire si è ritornati un pochino indietro. A Milano il FTSE MIB guadagna 0,5 punto percentuale, il FTSE All Share altrettanto. Per quanto riguarda il resto d'Europa prevalgono i segni meno, ma in maniera non eccessiva. Se pensate che Parigi cede lo 0,01% e Francoforte lo 0,07%, e New York in negativo, nonostante il dato sui sussidi di disoccupazione oggi sia andato abbastanza bene. Tra l'altro sul mercato italiano c'è da segnalare che in pregiro guadagna il 3,36%, questo anche dovuto agli accordi commerciali che sono stati stretti oggi nel corso della visita appunto di Wang Jiabao. Complessivamente, e parliamo di tutti gli accordi commerciali naturalmente, non solamente quelli in pregiro, si parla di oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro. Parleremo di questo, poi sentiremo la voce di Jean-Claude Trichet. Si parlava del record dell'euro, ebbene oggi c'è stato un nuovo record dell'oro, nel giro di un'ora ha guadagnato circa 10 dollari l'oncia. Questa mattina è una questione che abbiamo affrontato nei giorni scorsi con gli analisti che si occupano di queste cose. Oggi lo toccheremo invece con l'industria del settore, l'industria orafa, che naturalmente sta risentendo, vede i suoi margini di guadagno compressi da questo rialzo dell'oro. Questo naturalmente nella seconda parte del programma, dove parleremo anche di federalismo fiscale, ascoltando la voce del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Le notizie in breve di questa giornata. Si diceva dell'oro, oggi è andato forte anche il petrolio. A New York aperto in rialzo ad 84,35 dollari, un più 1,4%, è molto forte, va anche il Brent in queste ore. L'oro ha superato la soglia dei 1.360 dollari l'oncia, per essere esatti, al mercato di New York. Le quotazioni hanno raggiunto il nuovo picco di 1.366 e di 1.364,77 a Londra, quindi sostanzialmente allineate. Sale anche l'argento ai nuovi massimi da 30 anni, a 23,24 dollari l'oncia, e al livello più alto dello scorso maggio il platino a 1.717 dollari l'oncia. Per quanto riguarda le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, si diceva che è un dato positivo perché sono inaspettatamente diminuite la scorsa settimana di 11.000 unità. Gli economisti si aspettavano un aumento di 2.000 unità. Buone notizie arrivano anche dall'Europa, e in particolare ancora una volta ci sentiamo di dire dalla Germania, perché c'è stata una netta accelerazione della produzione industriale, tra l'altro in agosto, una crescita mensile dell'1,7%, oltre 3 volte superiore alle attese degli analisti. E su base annua l'incremento è stato del 10,7% in base al dato corretto per giorni lavorativi. Dell'euro si è detto. quanto, per quanto riguarda invece la sterlina, è salita ad 1,60 dollari per la prima volta dal 3 febbraio. Su questo fronte il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, dichiara in un'intervista al quotidiano parigino Le Monde di prendere molto seriamente la minaccia di una guerra delle valute. Dice: bisogna evitarlo e il Fondo Monetario farà delle proposte in questo senso. Dà ragione al segretario al tesoro americano Timothy Geithner e lo ringrazia per credere che il Fondo Monetario sia il posto giusto per discutere. E su questo tema, tra l'altro, interviene anche il presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, dice no a cambi troppo volatili, il tema è in agenda. E ancora sulla Cina, lo dicevamo, rimane sullo sfondo di questa visita di Wang Jiabao in Europa. È molto importante che la Cina metta in pratica la sua riforma del regime di cambio dello yuan, dice Trichet, però parla anche del dollaro e aggiunge crede che un dollaro forte sia nell'interesse degli Stati Uniti. Riunione della Banca Centrale Europea che, come si attendeva, si è conclusa con i tassi invariati all'1%, costo del denaro al minimo storico, e Jean-Claude Trichet, che così come aveva fatto l'altra volta, dice che i tassi sono adeguati e che l'economia rimane in ripresa anche se moderata. Dice tra l'altro Trichet che il mercato monetario, e attenzione, non valutario, sembra essersi stabilizzato, quindi le misure non standard attraverso le quali la BCE continua a fornire liquidità aggiuntiva alle banche però continuano ad essere necessarie. Su questo, dice, non c'è stato dissenso nel board della banca centrale. L'Europa. La Commissione europea sostiene l'idea di una tassa sulle transazioni finanziarie a livello globale per affrontare sfide come quelle dello sviluppo o la lotta ai cambiamenti climatici, mentre a livello europeo ritiene preferibile l'opzione di una tassa sulle attività finanziarie che, se ben disegnata e applicata, può generare entrate significative e aiutare ad assicurare una maggiore stabilità dei mercati. Questo è il comunicato della Commissione europea. Abbiamo anche delle parole che arrivano oggi dalla Banca d'Italia. Il vice direttore generale Anna Maria Tarantola dice: pur essendo il nostro un sistema bancario fondamentalmente sano, stiamo osservando una prolungata contrazione dei prestiti alle imprese, che ha in parte riflesso l'esigenza di alcuni intermediari di riequilibrare le condizioni di liquidità e di capitalizzazione. Parla anche la Corte dei Conti. Nell'analisi dei conti pubblici conferma la ristrettezza dei margini di intervento di cui dispone la gestione della finanza pubblica in condizioni di bassa crescita economica, dice il presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino. Sempre l'Italia. Parliamo di federalismo, perché oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il maxi decreto legislativo sul federalismo fiscale, provvedimento in 27 punti che accorpa le nuove disposizioni sulla finanza regionale, provinciale, sui costi standard in sanità. Da segnalare che su questo fronte dovranno arrivare i decreti attuativi e poi là, consentiteci l'espressione, si vedrà veramente la ciccia, soprattutto sui costi standard. Sul fronte del federalismo dice Tremonti che il processo è quasi terminato, che col Consiglio dei Ministri di oggi si è chiusa la fase fondamentale della definizione dei 7 decreti. E aggiunge il Ministro dell'Economia: non aumenta la pressione fiscale generale. Siamo convinti che il federalismo fiscale è uno strumento, un meccanismo che unisce e non divide. E siamo convinti che è un meccanismo che raddrizza l'albero storto della finanza pubblica italiana. E crediamo che sia una delle grandi riforme strutturali, costituzionali di questo Paese. Il nostro obiettivo fondamentale è non aumentare con questo la pressione fiscale. Noi pensiamo che il vincolo a non aumentare i mezzi per ridurre forme eccessive di spesa apre spazi per ridurre la pressione fiscale. Non la aumentiamo, la vogliamo ridurre. Da segnalare sul fronte fiscale anche la proposta in arrivo dal Partito Democratico, non tecnicamente un quoziente familiare, ma un fortissimo abbassamento delle tasse di circa 7.000 euro annui, verrà presentato domani all'Assemblea del Partito, una detrazione annua di 3.000 euro per ogni figlio a carico, nonché una detrazione IRPEF per le mamme che lavorano, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2.000 euro. Naturalmente vi chiederete dove sono le coperture finanziarie di questa proposta. Il PD le indica tra l'altro nell'innalzamento delle tasse sulle rendite finanziarie dal 12 al 20%. E veniamo al primo argomento di giornata, ossia la Cina. In arrivo da Bruxelles alla penultima tappa del tour europeo che l'ha portato in Grecia, che terminerà in Turchia, il premier cinese Wen Jiabao è oggi a Roma. Il capo del governo di Pechino ha avuto colloqui con le più alte cariche dello Stato e sono stati firmati 10 accordi commerciali per un valore, come si diceva, di oltre 2 miliardi di euro, 2,25 per essere esatti, ai quali si aggiungono 7 accordi governativi. Allora, tra le altre cose che ha detto Wen Jiabao, vogliamo dare uguale trattamento a tutte le imprese, così da mettere sullo stesso piano le imprese straniere e quelle cinesi. Le imprese vengano ad investire da noi, promette tra l'altro Wen Jiabao più tutela della proprietà intellettuale. Allora, saluto Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, spesso presente da noi naturalmente quando parliamo di Cina. Forchielli, buonasera. Salve, buonasera. Allora, una visita oggettivamente importante, si sono fatte tante cifre, si è parlato di da parte di Wen Jiabao più cautamente di un obiettivo di 80 miliardi di interscambio, da parte del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è parlato addirittura di 100 miliardi, una sorta quasi di siparietto in conferenza stampa tra i due su questo tema. È un tema, Forchielli, che abbiamo affrontato molto nei mesi scorsi, anche sul fronte della capacità di aggressione delle imprese italiane dei nuovi mercati, in particolare della Cina, che ormai è nella percezione globale è sostanzialmente cambiata, nel senso che 15 anni fa era il concorrente sleale, poi è stato il copiatore, poi è stato il luogo dove si andava a produrre perché costava meno e poi è diventato un grande mercato. Lei lo sente questo cambiamento di percezione? Beh sì, ma per la moda italiana è incredibile, ci sono negozi di moda italiani anche nelle città più remote ormai, credo che Bulgari abbia aperto Suzhou e credo che abbia in programma di aprire lo Shanxi, ossia, abbiamo negozi probabilmente di Armani o Ken a Chengdu, ossia, la moda italiana sta facendo benissimo, tradizionalmente la meccanica italiana faceva bene, può fare meglio, però effettivamente l'anno scorso la Cina è stato l'unico mercato di esportazione italiano in crescita. Beh, su questo fronte parlava lei della meccanica, insomma c'è stato un bel segnale. Allora, oggi tra gli accordi che sono stati siglati e questo accordo con il nulla osta della CSRC, che è la Consob cinese, che ha dato parere favorevole all'ipotesi di una quotazione di IMA alla borsa cinese di Shanghai. Che cos'è IMA? È un'azienda che fattura circa mezzo miliardo di euro, che ha radici a Bologna ma di fatto è una multinazionale nel settore dei macchinari per il confezionamento, quindi proprio un settore tradizionale di export dell'Italia e che quindi insomma che in realtà è già dal 1995 in Cina, che decide di fatto di quotare la sua branca cinese a Shanghai. Abbiamo intervistato il presidente di IMA, Alberto Vacchi, ascoltiamo cosa ci ha detto. Diciamo che nel nostro caso la finalità è due tipi. E certamente quella considerazione che ha fatto lei è molto giusta, nel senso che certamente a livello di finanza internazionale la Cina e la Borsa di Shanghai in particolare sta sempre più rappresentando un elemento centrale. Ma nel nostro caso, oltre a cogliere un'opportunità di questo tipo, c'è anche la volontà di avere una presenza anche di tipo istituzionale all'interno di quel territorio, riuscire ad avere una maggiore penetrazione commerciale, visto che uno dei nostri obiettivi è quello di penetrare commercialmente quel mercato. Il fatto di poter attivare anche finanza cinese per crescere non soltanto commercialmente anche, ma anche produttivamente su quel mercato, credo che possa essere un'idea interessante, quindi noi la facciamo anche e soprattutto per questo. 349-238-6666 per i vostri sms e anche per le vostre domande. Certo, Forchielli ha l'aria di un come dire un passaggio di assetti, di un cambio di assetti internazionale importante. Insomma, qualche anno fa, negli anni 80 e 90, le aziende italiane andavano a quotarsi a New York, adesso ce n'è una che sceglie Shanghai. Certo. Perché uno dovrebbe prendere i soldi americani per andare a vendere sul mercato cinese? Non ha senso. Cioè, è molto più giusto prendere soldi cinesi per vendere sul mercato cinese. Così uno ha, prima, ha degli azionisti cinesi che ti sostengono. Secondo, la Cina è molto più liquida degli Stati Uniti, la borsa di Shanghai è molto più liquida. Si faranno 200 IPO all'anno la borsa di Shanghai. IPO voglio dire Initial Public Offerings. Quindi è una borsa molto liquida, con dei multipli molto alti, ormai i cinesi dicono: perché dovevo portare i nostri soldi a New York e a Londra, che hanno dimostrato di essere delle borse con poca regolamentazione e inaffidabili? Quindi sempre di più i soldi rimarranno a casa, dove sono, quindi in Asia, e la gente andrà là a prenderseli, in quelle borse là. E il fatto che una opzione, una possibilità di questo tipo sia stata data per la prima volta a un'azienda italiana, prima volta nella storia, perché le aziende straniere non si possono quotare in Cina, è un fatto assolutamente storico. Cioè, dobbiamo essere fieri dell'IMA. E anche un cambiamento dal punto di vista della mentalità cinese, cioè alle parole di oggi di Wen Jiabao sull'apertura della Cina alle imprese straniere, evidentemente corrispondono, anche se in questo caso ancora in piccola quota, i fatti. Ah beh, se Wen Jiabao assiste a una firma non perde la faccia. Cioè, se Wen Jiabao era lì e ha visto fare una firma di questo tipo, stia tranquillo che le cose vanno in quella direzione lì. Allora, Forchielli, dicevamo che rimane sullo sfondo, poi ci ascolteremo le voci di questa giornata, a partire appunto dal Presidente del Consiglio e poi la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, perché insomma questo tema appunto delle imprese, della presenza delle imprese è importante. Resta sullo sfondo, in questa 4-5 giorni di viaggio europeo di Wen Jiabao, la questione dei cambi, ossia queste pressioni che sono state ripetutamente esercitate da Bruxelles, prima dagli Stati Uniti, ma da Bruxelles, perché parliamo del vertice ASEM che ha raccolto appunto i paesi asiatici e l'Europa, sul fronte dei cambi. Insomma, questo yuan troppo basso, ma sembra francamente che la Cina da questo punto di vista non ci voglia sentire. Questa è una storia complicata, non è così semplice come lo si voglia far credere. La Cina, una volta il saldo netto export meno import della Cina era al 10% del PIL cinese, e adesso è sceso al 4%, quindi le esportazioni nette, diciamo, non rappresentano granché, quindi non è che questo yuan dia tanto fastidio. I cinesi dicono: ovviamente, se voi ci fate alzare lo yuan di troppo, molte imprese esportatrici falliscono, e quindi il processo deve essere graduale, sia l'innalzamento dello yuan deve essere accompagnato da un processo di consolidamento industriale e da un processo di accorpamento. Io trovo questo ragionamento abbastanza valido, nel senso che in realtà quello che a noi interessa non è che lo yuan sia basso o alto, ma quello che a noi interessa è che l'economia cinese tiri e che la domanda interna cinese tiri. Così, per esempio, le nostre imprese di moda crescono il 50% dell'anno in Cina, yuan o non yuan, non importa, capito? Quindi io sostanzialmente sono su una linea molto più pragmatica e abbandonerei dogmatismi nord-europei e americani per lasciare il tempo alla Cina di rivalutare lo yuan. Tanto quello che importa è che loro continuino a fare la locomotiva del mondo e continuino a consentire alle nostre imprese di esportare, cosa che sta succedendo. Quindi più importante appunto che l'economia cinese tiri piuttosto che svaluti lo yuan. Ringraziamo anche per oggi Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, per essere stato con noi. Buonasera. Salve, buonasera, grazie. Allora, iniziamo adesso a sentirci qualche voce di questa giornata, iniziando dalla presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Si diceva della Cina come opportunità, sentiamo su questo tema la Marcegaglia. I rapporti tra i due nostri paesi sono eccellenti, lo sono dal punto di vista politico, lo sono dal punto di vista culturale, lo sono dal punto di vista economico e lo sono anche nelle relazioni personali, e questo sempre aiuta la cultura, l'economia e anche i rapporti politici. La Cina rappresenta per le imprese italiane, oggi ce ne sono qui molte presenti, un mercato di enormi opportunità, lo è già oggi e lo sarà sempre di più in futuro. Come Confindustria noi abbiamo realizzato varie iniziative in Cina proprio perché lo riteniamo uno dei mercati più importanti per le nostre imprese. Abbiamo fatto una missione nel 2004, una nel 2006, ne abbiamo fatta una quest'anno pochi mesi fa. Abbiamo portato 200 imprese e siamo anche andati a esplorare alcuni territori nell'Ovest come la municipalità di Chongqing. In questo arco di tempo le esportazioni dell'Italia verso la Cina sono raddoppiate, questo è importante, e l'interscambio commerciale bilaterale è passato da 15 miliardi di dollari nel 2004 a oltre 31 miliardi di dollari nel 2009. Accanto a questo va detto, lo sappiamo bene, che ormai la Cina è elemento fondamentale nello sviluppo dell'economia globale. Proprio l'altro giorno il Fondo Monetario ha ancora una volta evidenziato che la Cina è motore di crescita globale. La Cina è primo esportatore al mondo, lo sappiamo, seconda destinazione mondiale per gli investimenti esteri, con un flusso di 95 miliardi di dollari nel 2009. E quindi, ripeto, la Cina è imprescindibile per qualsiasi strategia futura e ovviamente anche presente delle imprese italiane. 100 miliardi di dollari di interscambio tra Italia e Cina entro i prossimi 5 anni, obiettivo difficile ma raggiungibile, secondo Marcegaglia. Anche se questo focus è molto chiaro e anche se ci sono alcuni dati che evidenziano che sta migliorando il nostro interscambio, c'è molto da fare. Possiamo fare meglio. Oggi noi siamo il 21esimo fornitore della Cina, il terzo in Germania, ma la nostra quota è ancora bassa, quindi mi pare che l'obiettivo che i due leader politici si sono dati di arrivare a 80-100 miliardi di dollari di interscambio in 5 anni sia un obiettivo importante, magari complesso, ma noi ci crediamo e lavoreremo in questa direzione. Si è detto che sono stati stilati molti accordi commerciali, tra un attimo ci torneremo, ma sono stati firmati anche degli accordi importanti sul fronte legale, prettamente legale, ossia delle condizioni appunto nelle quali le imprese vanno ad investire in Cina. Così riassume il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Mi sembra molto importante la decisione di volere garantire alle imprese straniere le stesse condizioni garantite alle imprese nazionali. Questo per quanto riguarda tutte quelle che sono le pratiche burocratiche, il trattamento fiscale e soprattutto la partecipazione alle gare di appalto. Credo che questo sia assolutamente importante. Sui dati di sviluppo economico della Cina siete informati, nonostante la crisi globale, nel 2009 si è sviluppata per il 9,6% ed ha avuto un incremento del PIL quest'anno, ormai confermato, che supererà il 10%. È ormai la seconda economia mondiale, è il primo esportatore mondiale, ma i suoi ritmi di sviluppo lasciano intendere che ben presto sarà la prima economia mondiale. Non male in tema di rapporti commerciali tra Italia e Cina. L'SMS ci scrive un ascoltatore, Gianluca, dice che sta ascoltando. Lui manda il vino toscano in Cina e paga al governo cinese il 46%. Dice, loro passano da Napoli e saltano pure l'IVA. Vabbè, insomma, in quel caso ci sarà naturalmente qualche irregolarità, evidentemente. Allora, un impegno pari a 10 miliardi di euro di renminbi, cioè 1,2 miliardi di euro, coperto e garantito da China Development Bank Securities, il braccio operativo finanziario dello Stato cinese. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche nei giornali di radio. Si tratta di fatto di una investment bank di Stato cinese. Questo 1,2 miliardi è la ricca dote di partenza del Mandarin Capital Partners 2, che è un nuovo fondo di private equity che raccoglie il testimone di Mandarin 1. Il Mandarin, ha spiegato Fabio Roversi Monaco, presidente del fondo, ha dimostrato in questi anni di poter gestire problemi complessi con un'ampia condivisione degli obiettivi tra i soci italiani e quelli cinesi. Chiara Di Michele ha intervistato appunto Fabio Roversi Monaco. Sentiamo. Ci sono importanti accordi che riguardano aziende italiane che vengono acquisite, in parte collaborazioni forti fra Italia e Cina, in settori importanti dell'economia, dell'industria, però io vorrei rimarcare una cosa particolarmente. La China Development Bank, un anno fa, ha costituito CDB, China Development Bank Security, che è una struttura per gli investimenti in buona sostanza, quindi un anno di vita, e già la CDB Security ha l'animo di costituire un fondo di 1 miliardo e 200 milioni di euro, che sono 10 miliardi di moneta cinese, e a questo fine ha dato un ruolo importante di consulenza e anche di acquisizione degli investitori che entreranno in questo fondo da 1 miliardo e 200 milioni di euro al fondo Mandarin. E quindi questa mi sembra una dimostrazione di fiducia e un fatto rilevante, sia in fase istruttoria, sia in fase di decisione di quali operazioni portare avanti. In tutto questo il Mandarin è impegnato moltissimo, perché le ipotesi e le chance sono numerosissime, e quindi ruolo estremamente dinamico, estremamente positivo. Nel 2011 non c'è nessun motivo per pensare che questo ruolo non si sviluppi, anzi probabilmente verrà implementato. Giustamente ci chiedete che cosa sia il Mandarin Capital Partners. In sostanza è il più ampio fondo di private equity misto cinese-italiano. Allora, si diceva della banca di investimento cinese, la China Development Bank Securities, ed è stata quella che di fatto ha facilitato, in sostanza ha consentito tutti gli accordi di oggi, in particolare l'accordo tra Impregilo, Shanghai Electric e il fondo Mandarin, appunto, con CDB Securities. Impregilo praticamente entrerà in Cina con e poi toccheremo il tema quando arriveremo ai mercati tra poco, con la sua controllata che si occupa di dissalazione. Allora, ascoltiamo i punti principali dell'accordo nelle parole del presidente da China Development Bank Securities, Li Weibin. Un accordo molto importante coinvolge quattro soggetti di primo piano: China Development Bank Securities, il fondo Mandarin, Impregilo e Shanghai Electric. L'accordo è finalizzato per la collaborazione e lo sviluppo di sinergie nel settore della dissalazione dell'acqua. Questo accordo è un esempio della collaborazione tra China Development Bank Securities e il fondo Mandarin, ed è lo specchio della collaborazione tra i due paesi, che porterà vantaggi sia alle società che ai paesi, Italia e Cina. Questo accordo rappresenta il risultato immediato della collaborazione tra China Development Bank Securities e il fondo Mandarin, e vedrà l'unione di tutte le risorse dei diversi soggetti coinvolti, dall'apporto di capitale alla tecnologia. Il risultato sarà vantaggioso per tutti. Questo il quadro dalla giornata di confronto tra Italia e Cina. Noi in qualche modo riprendiamo da qua e riprendiamo, cambiando argomento, da Francoforte. Perché? Perché il tema del mercato dei cambi, del mercato valutario, è stato toccato dal presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet. Vi dicevamo in apertura come sono andate le cose. La BCE naturalmente ha lasciato invariato all'1% il tasso di riferimento principale in Eurolandia, ma appunto il tema più forte è stato quello dei cambi. Dice Trichet che la volatilità eccessiva rischia di avere effetti nefasti. Ha ribadito il sostegno alla posizione ufficiale americana, dove le autorità hanno più volte affermato di essere a favore di un dollaro forte, e ha parlato anche, rilanciato le richieste alla Cina perché rivaluti lo yuan. Partiamo dunque da qua. As regards China, as you know, per quanto riguarda la Cina, come sapete, abbiamo avuto diversi incontri importanti con il governo cinese negli ultimi giorni. Insieme agli altri membri della cosiddetta Troica europea, mi sono incontrato a Bruxelles con le autorità di Pechino. Come ho già detto, ripeto che è estremamente importante che gli impegni sulla flessibilità del renminbi dichiarati il 19 giugno vengano confermati. È molto importante che la Cina metta in pratica la sua riforma del regime di cambio dello yuan. Riteniamo che ciò sarebbe estremamente positivo sia per la Cina stessa che per una crescita equilibrata a livello globale. A chi ci scrive che nel capitale di IMA ci sono da tempo i cinesi e non è un'azienda italiana, IMA è l'azienda che si andrà a quotare alla borsa di Shanghai, della quale abbiamo parlato poco fa, in realtà non è propriamente così, nel senso che è vero che c'è una parte cinese, ma c'è esattamente il fondo Mandarin, del quale abbiamo parlato poco fa, che è un fondo di private equity misto italiano-cinese, che ha l'8% peraltro e non la maggioranza, quindi non la controlla. Si diceva di Trichet, che ha parlato anche del dollaro. As regards the issue on exchange rate, per quanto riguarda i tassi di cambio, ritengo che ora più che mai i tassi dovrebbero riflettere i fondamentali economici e che un'eccessiva volatilità nei cambi ha implicazioni negative per l'economia e la stabilità finanziaria. Avremo occasione di scambiare le nostre vedute su questo tema a Washington. Come ho già detto, ho sempre condiviso la linea delle autorità statunitensi che ritengono che un dollaro forte sia nell'interesse degli Stati Uniti d'America. Le 17:47 minuti, i mercati. Guido Maurino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, la giornata è stata particolarmente positiva per Milano, almeno a guardare il resto d'Europa, insomma tutte le piazze finanziarie del vecchio continente hanno oscillato intorno alla parità, Milano è andata decisamente meglio. Sì, Milano oggi è andata decisamente meglio del resto d'Europa, spinta soprattutto da Impregilo e in qualche modo anche dalle buone performance del settore bancario. Nel resto d'Europa invece i destini sono stati più contrastati, alcuni hanno chiuso sopra la parità, alcuni sotto, comunque diciamo poco mossi, anche perché l'apertura di Wall Street è stata debole, nonostante un buon dato sui sussidi alla disoccupazione che nell'ultima settimana sono scesi inaspettatamente di 11.000 unità, tuttavia il dollaro dopo aver sfondato quota 1,4 euro e ridisceso attorno all'1,39, questo genera un po' di timore diciamo sull'economia americana e ha pesato un pochettino diciamo sull'andamento di Wall Street. Sì, si diceva a New York il Dow Jones cede lo 0,23% in questo momento, quindi piuttosto deboli. Impregilo, ne accennavamo poco fa parlando della giornata di oggi, della visita del premier cinese Wen Jiabao a Roma, ha beneficiato parecchio dell'accordo sottoscritto oggi, un più 3,48%. Sì, si tratta di un accordo importante per Impregilo, perché è un accordo accordo con diverse imprese nel settore della distillazione delle acque, quindi nella capacità di togliere il sale dall'acqua, un settore in cui già Impregilo opera attraverso Fisia impianti e che in prospettiva, grazie a questa joint venture, potrebbe dare vita a un gruppo leader a livello internazionale. Diciamo che sull'onda di queste notizie e anche un po' sulle indiscrezioni che si erano diffuse sui mezzi di stampa riguardo a un possibile ingresso di investitori russi nella società, il titolo oggi ha guadagnato il 3,48%, vale anche la pena segnalare che comunque ieri aveva perso oltre il 2%, quindi in qualche modo si parla anche di ricopertura. Ecco. Allora Guido, per quanto riguarda invece, e andiamo anche un pochino per settori, le banche mi sembra che complessivamente abbiano ottenuto oggi, ci sono certamente le parole di Trichet che dice in sostanza che il mercato si sta tranquillizzando, il mercato monetario. Sì, il mercato monetario si sta tranquillizzando e anche gli istituti di credito appaiono più solidi. Oggi Trichet ha detto che le banche stanno chiedendo meno fondi nelle operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea, questo vuol dire che in qualche modo la situazione migliora, tuttavia Trichet ha detto che per il momento le agevolazioni sulla politica monetaria restano, Trichet ha detto in particolare manteniamo al momento le condizioni di liquidità illimitata nelle operazioni di rifinanziamento, però insomma ha lasciato capire che la situazione del sistema bancario si sta normalizzando. Oggi ad approfittarne sono state soprattutto Unicredit che ha guadagnato l'1,25%, BPM l'1,06%, anche il Banco Popolare che ha chiuso in rialzo dello 0,79%. Questo è il quadro per quanto riguarda i bancari, un po' peggio ha fatto invece il risparmio gestito, mi sembra di capire. Sì, il risparmio gestito oggi ha pagato leggermente dazio perché ieri sono stati diffusi i dati sui fondi di investimento che hanno mostrato a settembre deflussi per 1,7 miliardi, in particolare oggi sono andate male Azimut che ha ceduto l'1,73% e anche Mediolanum che ha ceduto lo 0,78%. Complessivamente debole il settore del cemento, anche qua. Sì, soprattutto con Buzzi Unicem e Italcementi, Buzzi Unicem ha ceduto l'1,41% e anche Italcementi ha ceduto lo 0,82%. In questo caso si tratta delle indicazioni negative arrivate da una società irlandese, CRH, che nel corso di un incontro con gli analisti ha fornito un outlook negativo sui prezzi del cemento. Queste parole, queste indicazioni hanno depresso oggi un po' tutto il comparto in Europa e quindi anche le due italiane attive nel settore sono state colpite dalle vendite. C'è un motivo particolare o sono questioni valutarie che hanno portato Bulgari a guadagnare l'1,68? Non c'è nessuna notizia, sì, si può dire che sono questioni valutarie legate all'andamento del dollaro che comunque, insomma, anche se ha perso quota 1,4 nei confronti dell'euro, rimane comunque forte sopra quota 1,39. Bene, oggi anche Fiat un guadagno dell'1,09, anche qua non ci sono motivi particolari, no, un po' diciamo di recupero. C'era un report questa mattina di Credit Suisse che ha alzato il target, quindi il prezzo obiettivo per il titolo nei prossimi 12 mesi a 11,5 euro dai precedenti 9 euro. Ci sono anche, sono poi arrivati nel corso della giornata i dati sulle immatricolazioni delle auto in Brasile che hanno però segnato un leggero calo dell'1,8%, ricordiamo che il Brasile è un mercato molto importante per il lingotto. Infine Mediaset bene anche oggi, un più 1,29%. Sì. Il titolo era balzato in apertura, aveva guadagnato oltre il 2% dopo che il Corriere della Sera, dicevamo prima di Impregilo, che poteva essere in cui potevano entrare nel capitale investitori russi, ma anche e soprattutto in Mediaset si parlava di questo ingresso di investitori russi. La notizia in realtà poi è stata smentita dalla società e questo ha in qualche modo limitato l'appeal speculativo sul titolo, che comunque ha chiuso in buon rialzo dell'1,29%. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore, in particolare a Guido Maurino. Buonasera Guido. Buonasera. Allora, un quadro finale di giornata, appunto, in pregiro Bulgari si è detto bene Atlantia e Tenaris, un guadagno di oltre l'1,3%, Enel che guadagna l'1,29% come Mediaset, della quale abbiamo detto, Unicredit che guadagna l'1,25%, Pirelli e Fiat su dell'1,09%, bene la Popolare di Milano e si è detto dell'1,06% e Generali dell'1,02%, A2A in guadagno dello 0,9%, dello 0,8% Unipol, il Banco Popolare dello 0,79%. E già ce lo diceva Guido Maurino, Parmalat un guadagno dello 0,6% e CIR dello 0,46%, dello 0,4% salgono Intesa San Paolo e Terna, Intesa San Paolo che dunque ha beneficiato un pochino meno evidentemente delle parole di Trichet, Terna si diceva dello 0,4%, positiva Eni dello 0,3%, Snam Rete Gas dello 0,27%, dello 0,26% Ansaldo, Mediobanca su dello 0,22%, Luxottica dello 0,15%, dello 0,1% tanto Exor quanto Campari, mentre Finmeccanica sale di appena lo 0,06%, scende dello 0,06% invece Fondiaria. Tra i titoli negativi si diceva Azimut dell'1,6% giù dell'1,73%, Buzzi Unicem dell'1,41%, sia Prismi anche Saipem scendono dello 0,86%, ST e Italcementi dello 0,8%, Mediolanum e Geox dello 0,7%, Telecom Italia dello 0,39%, UBI Banca dello 0,20%, a chi ci chiedeva del Monte dei Paschi, eccolo qua, meno 0,19%, in calo anche Autogrill dello 0,16% e Lottomatica dello 0,09%. Tutto questo in una giornata, come si diceva, che ha visto ancora una qualche tensione per quanto riguarda i mercati valutari, in particolare per quanto riguarda l'euro, che ha toccato e superato quota 1,40 contro il dollaro, per l'esattezza 1,40,29, mentre in questo momento ha decisamente ritracciato, e ce lo diceva già il collega di Radio Corriere del Sole 24 ore poco fa, e arriva a quota 1,39,2. Nel frattempo la borsa americana prosegue in negativo, si diceva dei dati sui sussidi di disoccupazione, sono scesi di 11.000 unità, gli analisti si attendevano in realtà un rialzo, ma evidentemente la borsa americana ha deciso di non dare retta, se così possiamo dire, ai dati macroeconomici. Il Dow Jones cede lo 0,24%, il Nasdaq è in lieve guadagno dello 0,07%, lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,24%. Allora, sì, abbiamo parlato di Cina, come avete sentito ampiamente, abbiamo parlato di mercati, ma insomma, giusto per riassumere, la giornata a Milano è stata positiva con un guadagno sul FTSE MIB dello 0,6% e di mezzo punto percentuale sul FTSE All Share, mentre prosegue negativa la seduta di New York. Adesso affrontiamo, anche se brevemente, almeno in questa occasione, il tema del federalismo. Brevemente perché il Consiglio dei Ministri ha sì approvato il maxi decreto legislativo sul federalismo fiscale. È un provvedimento in 27 punti, accorpa le nuove disposizioni sulla finanza regionale, provinciale e sui costi standard in sanità. C'è un però, ossia che naturalmente a tutto questo dovranno essere accompagnati dei decreti attuativi che spesso hanno al loro interno il vero corpo dei provvedimenti, come spesso vi abbiamo raccontato non solamente dai microfoni di Focus Economia. Comunque, i punti principali di questo decreto ci parlano della scomparsa della compartecipazione IRPEF e l'introduzione dell'addizionale regionale, che potrà arrivare sino al 3% di pari passo con la diminuzione dell'aliquota di competenza statale. Potranno ridurre l'IRAP solo le regioni che non hanno alzato l'IRPEF. Poi verrà ridefinita la quota di IVA destinata alle casse regionali. Il gettito servirà per alimentare il fondo di solidarietà destinato a colmare i gap regionali in materia di sanità, istruzione, servizi sociali e trasporto pubblico. Questi gap da cosa dipendono? Semplicemente dal fatto che ci sono regioni che magari anche a parità di abitanti incassano più tasse perché sono delle regioni più ricche, dove ci sono più industrie, dove ci sono più aziende, e ci sono regioni naturalmente che incassano meno, tipicamente regioni del nord versus regioni del sud. Poi dal 2012 scatta la compartecipazione delle regioni all'accisa sulla benzina e dal 2014 scompaiono la tassa di abilitazione professionale e l'imposta sulle concessioni demaniali. E ancora, quello che è forse l'elemento più importante, il tema sul quale ci si è concentrati tantissimo in quest'ultimo periodo, sono i cosiddetti costi standard della sanità. Che cosa sono? Sono dei costi standard per ogni singola prestazione, per evitare che magari una TAC costi una certa cifra in Sicilia e costi un decimo in Lombardia o in Veneto. Magari sulla TAC, insomma, le differenze non sono proprio queste, però di differenze di questo tipo, anche banalmente sull'acquisto dei prodotti, ce ne sono tantissime. Ebbene, i costi standard per la sanità verranno definiti utilizzando i bilanci di 3 regioni scelte in una rosa di 5 individuata dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute. Se ne era parlato già nelle settimane scorse. Inizialmente si era pensato di utilizzare come costi standard quelli delle regioni più virtuose, cioè in sostanza quelle che riuscivano a far pagare meno determinate prestazioni, poi in realtà l'orientamento sembrava essersi indirizzato sullo scegliere le regioni che sono in parità o almeno in condizioni finanziarie migliori rispetto alle altre. Dice il ministro dell'Economia Giulio Tremonti: il processo del federalismo è quasi terminato. Oggi con questo Consiglio dei Ministri abbiamo chiuso la fase fondamentale della definizione dei 7 decreti di attuazione. E ancora, il nostro obiettivo è non aumentare la pressione fiscale generale, introdurre meccanismi di controllo della spesa pubblica. Sentiamolo. Siamo convinti che il federalismo fiscale è uno strumento, un meccanismo che unisce e non divide. E siamo convinti che è un meccanismo che raddrizza l'albero storto della finanza pubblica italiana. E crediamo che sia una delle grandi riforme strutturali, costituzionali di questo Paese. Il nostro obiettivo fondamentale è non aumentare con questo la pressione fiscale. Noi pensiamo che il vincolo a non aumentare i mezzi per ridurre forme eccessive di spesa apre spazi per ridurre la pressione fiscale. Non la aumentiamo, la vogliamo ridurre. Sempre il ministro dell'Economia Giulio Tremonti sul tema dell'IVA. Il ministro dell'Economia dice: le regioni ce l'hanno chiesta, noi pensiamo che il federalismo regionale potesse essere invece basato sull'attribuzione di gettito di imposte dirette. Pensavamo che il federalismo regionale potesse essere più ampiamente basato sull'attribuzione di gettito delle imposte dirette. E invece, dato il punto chiesto dalle regioni, siamo tornati indietro all'IVA. Noi pensavamo che fosse più politico il riferimento alle imposte dirette. Se tu compri una lattina di bibita, non vi dico la marca, se no sarebbe inappropriato, una lattina di bibita al bar, ci paghi sull'IVA, ma non pensi alla regione. Non pensi alla sanità, non stabilisci quel collegamento politico che sarebbe più intenso. E tuttavia la scelta, la richiesta fatta alle regioni è IVA. E noi, proprio in una logica di fattibilità, di consenso il massimo possibile, abbiamo lasciato l'ipotesi delle dirette e siamo tornati all'IVA. E poi il ministro Tremonti ha ricordato il modo nel quale si è giunti all'elaborazione finale del decreto. è stato oggetto ed è oggetto di un continuo di discussioni con i comuni, con le province, con le regioni. Io vengo da una riunione con i comuni e torno a parlare con i tecnici, con le regioni. Insomma, è stato un lavoro molto ampio e quella del federalismo fiscale è una riforma costituzionale. Lo è perché è prevista dalla Costituzione, è presupposta e lo è soprattutto perché tocca la base della democrazia, che è la tassazione, l'amministrazione e la responsabilità rappresentata. Ed è una grandissima riforma, è in atto, è progressiva, è molto equa, è molto condivisa, in Parlamento è stata condivisa, con i comuni, con le regioni viene condivisa. Progressivamente prende forma un impianto che va dal demaniale al municipale, dal provinciale al regionale, un impianto costituzionale di riforma. Se volete a bassa intensità, ma è una grande riforma. Queste le parole del Ministro dell'Economia, mentre dal Presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani arriva una critica soprattutto sul metodo. Dice: non condividiamo ciò che è stato fatto dal governo, appunto per una questione di metodo e di rapporti. Solo 48 ore fa avevamo definito un metodo di lavoro che non prevedeva la riunificazione dei due decreti, quindi è un tema, diciamo, puramente di come è stata fatta questa legge. Aggiunge Errani che non mancheranno i tempi necessari per la convocazione della conferenza unificata, daremo i tempi utili, no scusate, questo non è Errani naturalmente, ma è la risposta ad Errani del ministro Calderoli, del ministro Fitto, scusate, agli affari regionali. Dice: non mancheranno i tempi necessari per la convocazione della conferenza unificata, daremo i tempi utili per entrare nel merito del provvedimento dei costi standard. E ancora il ministro per la semplificazione Calderoli, appunto, ricorda i tempi del confronto con le regioni. Dopo un primo incontro in cui viene consegnato il testo, due giorni dopo arrivò anche il testo sui costi standard, e va bene, e c'è Errani di nuovo che controreplica. Ma appunto siamo sulle questioni di metodo, le questioni di sostanza sono quelle che poc'anzi abbiamo esposto. E ci scrive un ascoltatore, dice: la vera soluzione è la lotta alla corruzione. Forse i costi standard possono servire anche a questo, se pensa per esempio che nella famosa ASL di Reggio Calabria, commissariata per infiltrazioni mafiose, per un pacco di cerotti da 20 euro si era arrivati a pagare 3.500 euro, servivano 6 nuovi camici e ne erano stati ordinati 2.800. ecco, forse qualche criterio standard un pochino più chiaro su questo fronte consentirà anche allo Stato di tenere sotto controllo fenomeni come questi, che sono evidenti fenomeni di corruzione. Noi cambiamo argomento e parliamo dell'oro. Una corsa che non si arresta, ve l'abbiamo parlato molto, insomma, quantomeno le notizie ve le abbiamo date. Oggi si è arrivati a $1,366 l'once, dall'inizio dell'anno le quotazioni sono salite del 30%. Un'accelerazione iniziata nei primi giorni dello scorso agosto, in realtà, quindi abbastanza recente. L'oro ha guadagnato circa il 18% da allora, e solo nell'ultimo mese l'8,5%. In rialzo anche gli altri metalli, siamo ai massimi da 30 anni. Ne parliamo in questo caso non dal punto di vista loro possibile investimento, a quanto può arrivare, ma ne vogliamo parlare da un punto di vista industriale. Saluto dunque Stefano De Pascale, che è direttore generale di FederOrafi, che è l'associazione di Confindustria che rappresenta oltre 800 aziende del settore, a cui fa capo il 70% della produzione italiana di gioielli. De Pascale, buonasera. Buonasera, dottore. Allora, iniziamo a capire un attimo fino a che livello si può spingere il prezzo dell'oro e anche quello dell'argento, che come si diceva ha toccato i massimi da 23 anni, insomma, per non mandarvi in fallimento tutti quanti. Sì, ha ragione, cioè, ci auguriamo di aver già raggiunto la soglia massima, perché le nostre aziende stanno già soffrendo notevolmente di questa continua escalation nelle quotazioni dei metalli preziosi, giustamente lei diceva oro, argento, ma anche il platino continuano a raggiungere dei record giorno dopo giorno, ecco, più 30% in un anno, più 300% in 10 anni per quanto riguarda l'oro, sono dati da far rabbrividire le aziende di produzione, perché con questa materia ci devono lavorare e quindi le conseguenze per le nostre imprese sono molto pesanti in questa fase di incertezza e di crescita delle quotazioni. Ecco, nonostante tutto, gli ultimi dati su come stanno andando le esportazioni, come sta andando la produzione, sono in realtà abbastanza positivi, no? Ecco, sì, però il dato è un po' ingannevole, in quanto lei sicuramente faceva riferimento ai dati in valore, che parlano di più 20-25% nel primo semestre, ma appunto perché in valore, in questo valore è contenuto anche il valore, scusi la ripetizione, della materia prima, e quindi parlavamo prima di un'escalation del prezzo del 30%, quel prezzo ovviamente della materia prima influisce sul prezzo di vendita, quindi sui valori delle nostre esportazioni, e quindi il più 26% deve essere depurato della quotazione record della materia prima, e sostanzialmente direi che una nostra valutazione è che i valori di quest'anno sono allineati a quelli dell'anno scorso, 2009, che però erano dati molto già negativi, ecco, perché il settore sostanzialmente dal 2003-2004 è entrato in una fase di grave difficoltà, dovuta in particolare ai fenomeni di concorrenza sleale da parte delle cosiddette economie emergenti, ovviamente anche all'apprezzamento dell'euro, e in questi ultimi 2 anni c'è stata un'ulteriore escalation negativa per la crisi mondiale e le quotazioni dell'oro. Ecco. Ecco, detto ciò, De Pascale, però non è che ci siano particolari soluzioni per le aziende, cioè potete solamente nutrire speranze che la corsa dell'oro si fermi, perché non è che ci sono provvedimenti particolari che si possono prendere, insomma. Cioè, se voglio dire, se si può ragionare quando si parla soprattutto di materie prime del settore alimentare, di una regolazione maggiore perché riguarda un settore molto delicato, per voi probabilmente un pochino diverso. Beh, certamente, anche perché in questo caso, almeno in questi ultimi 2 anni, sono entrati dei fattori ancora più, diciamo, importanti e di difficile controllo, perché vediamo, leggiamo, insomma, gli interventi non solo speculativi, ma anche interventi delle banche centrali che fino a 2 anni fa vendevano l'oro delle proprie riserve, oggi invece acquistano, addirittura le banche centrali dei cosiddetti paesi emergenti stanno facendo incetta di materia prima, e questo non fa altro che ovviamente aumentare il valore della materia prima. Ricette ovviamente non ce ne sono per quanto riguarda un calmierare i prezzi della materia prima, perché bisognerebbe intervenire chiedendo alle banche di vendere, di mettere sul mercato la materia prima, ma non sono ipotesi al momento percorribili. Quello che si potrebbe fare, e che noi vorremmo che si facesse, è magari da parte del fronte creditizio, quindi del sistema bancario, una maggiore attenzione nei confronti del settore, perché una forte percentuale di approvvigionamento della materia prima arriva attraverso il sistema bancario, e quindi è importante che il sistema bancario sia a fianco delle imprese in questa fase molto delicata. Ecco, quindi la stretta creditizia in atto su tutto il manifatturiero, nel caso del settore orafo, è doppiamente, diciamo, impegnativa, perché comporta anche il coinvolgimento dell'approvvigionamento della materia prima, e quindi per noi è doppiamente difficile, e ci auguriamo appunto il sistema bancario possa con noi collaborare per snellire il sistema, ecco, sì. Per aiutare le imprese. Allora, 3 distretti industriali, Vicenza, Arezzo e Valenza Po, mi sembra di capire, De Pascale, che forse è Vicenza quello che sta soffrendo un pochino di più in questo momento. Sì, però ormai dunque i 3 distretti principali, Arezzo, Vicenza e Valenza, poi possiamo aggiungere l'area Napoli, Torre del Greco, poi c'è una forte area argentiera nelle Marche, Padova, via dicendo. E soffriranno pure quelli, suppongo, sì, adesso. Sì, perché l'argento è in crescita, anche l'argento, e quindi tutti stanno soffrendo, i distretti sono in fibrillazione, e chi più che meno sono comunque tutti in una fase di grande sofferenza. Questo è importante dirlo, come è importante che non abbandonare è quello che stiamo facendo anche con l'amministrazione centrale e con l'Unione Europea, cioè di andare a lavorare per migliorare le condizioni di accesso sui mercati internazionali, perché il nostro è un settore che per il 75% esporta, quindi quando la bolla o quella crisi passerà e la bolla delle quotazioni dell'oro scoppierà, quindi le quotazioni ritorneranno a un valore più consono, ripartirà il settore e quindi dovremo avere delle migliori condizioni per poter ritornare sui mercati internazionali. Bene, grazie a Stefano De Pascale, direttore generale di Federorafi, per essere stato con noi e buonasera. Buonasera a lei, grazie. Allora, siamo quasi in chiusura. Saluto Giuseppe Cruciani in studio qua, ci ha raggiunto. Giuseppe, eccoci, tra poco la zanzara. Esatto. Di cosa? Parleremo della vicenda televisiva e drammatica, soprattutto della morte di Sara Scazzi, perché ci sono delle polemiche sul fatto che ieri chi l'ha visto ha dato la notizia in diretta, ha dato la notizia soprattutto alla madre della ragazza in diretta, e poi naturalmente l'attualità politica. Bene, grazie Giuseppe, ti ritroviamo tra poco. Allora, una precisazione per evidentemente l'ascoltatore amatore del settore dei metalli che ci chiede la quotazione del palladio, che si è portato al nuovo picco assoluto di $602,50 oggi. L'argento ai massimi, il platino ha aggiornato il record degli ultimi 5 mesi e mezzo. Tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.